Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dal dato sulla disoccupazione in Italia, il dato riguarda chiaramente il dato definitivo dell'Istat, il 2009, non ci si aspettava obiettivamente grosse notizie in senso positivo, e infatti con anche il dato sul quarto trimestre si scopre che la disoccupazione nel 2009 è arrivata all'8,6%, ed è il massimo dal 2000, e tra l'altro sono 370.000 disoccupati in più rispetto allo stesso periodo del 2008 nel quarto trimestre. Complessivamente appunto il 2009 si chiude molto male sulla disoccupazione, sì, con un peggioramento anche nel quarto trimestre, meno 428.000. La cosa interessante, anche se negativa, di cui parleremo in apertura, è il dato sulla occupazione. La differenza è tra chi la disoccupazione va a misurare chi cerca un lavoro e non lo trova, l'occupazione misura il numero di occupati fatto 100, chi potrebbe anche potenzialmente lavorare magari non lo sta cercando. Ebbene, l'occupazione, gli occupati nel 2009 sono diminuiti di 380.000 unità rispetto al 2008. È il primo calo negli occupati a livello annuale dal 1995. E poi vedremo con la nostra scheda che chiaramente più tutelati sono stati i lavoratori dipendenti, hanno sofferto di più i giovani, donne, soprattutto se stanno al sud, contratti interinali o atipici in primo luogo. Non c'è invece una grossissima differenza fra i settori industriali, soffre moltissimo l'industria manifatturiera, anche l'agricoltura. Calano, ma non così tanto, i servizi, sul fronte dei servizi infatti il calo è leggermente più contenuto. Dopo i dati sulla disoccupazione commetteremo la chiusura di borsa. Devo dire che la borsa in questo momento è leggermente positiva, si oscilla tra un meno 0,2 e un più 0,1, siamo adesso a un più 0,03, non è cosa. Parigi meno 0,20, Francoforte più 0,20, Londra invariata, l'America meno 0,20%. A fare notizie però anche oggi sui mercati è soprattutto l'euro, la debolezza nei confronti del franco svizzero e anche nei confronti del dollaro oggi, perché l'euro è sceso a 1,33, è arrivato a vedere quota 1,32, nei confronti del franco svizzero è sceso a 1,42 in questo momento, nuovo record storico negativo. Che cosa è successo? Ne parleremo nella seconda ora del programma ed è il terzo grosso tema di oggi. Una delle tre agenzie di rating al mondo, quelle che danno i voti all'affidabilità del debito anche dei paesi, mi riferisco a Fitch, ha abbassato il voto sul Portogallo. E ora sappiamo tutti che Grecia, Portogallo, alcuni aggiungono anche Irlanda e Spagna, altri ci vogliono includere l'Italia, ma insomma sicuramente Grecia e Portogallo sono i due paesi in cui oggettivamente i conti stanno in piedi con maggior difficoltà, anche se il Portogallo non li ha mai truccati a differenza della Grecia. Ne parleremo nella seconda ora del programma, avremo anche un breve approfondimento sull'offerta argentina agli obbligazionisti anche italiani, fermo restando che domani se ne occuperà Deborah Rosciani a Salvadanaio a mezzogiorno. Infine la vicenda Fiat, che molto ha mosso il mercato, infatti oltre a Prismian che guadagna il 5,7%, Mediaset il 5,3%, Fiat guadagna il 4%, ipotesi oggi che verrà presentato il prossimo aprile il piano cosiddetto di spin-off, cioè la separazione auto quattro ruote dal resto del gruppo, smentito da Sergio Marchionne, l'avete appena ascoltato. Il mercato evidentemente scommette che qualcosa verrà presentato. Il peggior titolo invece è Buzzi Unici, meno 2,60, Impregilo meno 2,40, Telecom meno 1,5%. L'ultima cifra, come sempre, quella per i vostri sms: 349-238-6666. Le notizie in breve. Buono, buono l'export in Giappone, incredibilmente, ma adesso vedremo che non è poi così incredibile. Il Giappone a febbraio ha segnato un più 45% nelle sue esportazioni, con un attivo tra esportazioni e importazioni, un saldo positivo per 5 miliardi di euro. Non è un caso, infatti tutto questo boom dell'export giapponese è trainato da Cina e dal resto dell'Asia e anche un po' dagli Stati Uniti, ma insomma è la Cina, lo continuiamo a ripetere a chi deve arrivare fin lì, è la Cina a trainare, a guidare in questo momento la ripresa mondiale. Addirittura gli analisti avevano previsto un deficit nella bilancia commerciale giapponese, così non è stato, ripeto, un attivo di 5 miliardi di euro. In America invece continuano ad esserci problemi sulla vendita di case nuove, sono crollate al minimo storico a febbraio, ossia meno 2,2% a 315.000 unità. Dell'euro che ha toccato un nuovo minimo storico sul franco svizzero, abbiamo già detto, e anche dell'euro che è debole per via della vicenda portoghese nei confronti del dollaro, è ai minimi a 1,34, 1,33, minimi da 10 mesi, quasi un anno. Il petrolio non l'abbiamo dato, avete ragione, 80,5 dollari al barile, con un calo dell'1,7% rispetto alla quotazione di ieri. E intanto, per quello che riguarda la Grecia, cresce o starebbe crescendo il sostegno dei paesi dell'Unione Europea a favore di un ruolo del Fondo Monetario Internazionale proprio negli aiuti alla Grecia. Lo rivelano oggi alcuni funzionari tedeschi citati da alcune agenzie di stampa, Bloomberg e Reuters su tutte. E poi anche il nostro ministro Tremonti ha detto noi siamo favorevoli a un intervento dell'Europa utilizzando i soldi, gli strumenti del Fondo Monetario Internazionale. Contrario invece oggi a Milano, l'ha detto soprattutto in un'intervista al quotidiano tedesco Die Zeit, uno dei membri della Banca Centrale Europea, l'italiano Lorenzo Binismaghi, ha detto: il ricorso al Fondo Monetario Internazionale per aiutare la Grecia, come proposto dalla Germania, è da rifiutare perché sarebbe un danno per l'euro. Gli ordinativi all'industria nell'area dell'Europa a 16 tornano a scendere a gennaio, meno 2%, l'Italia, già avevamo dato il dato, comunque meno 6,7% dopo 4 mesi di calo. Anche qui gli ordinativi sono importanti perché danno la traccia di quello che capiterà poi ai fatturati delle aziende. Crescita record per l'Irlanda, più 31%, male anche la Francia, meno 10%, la Grecia ha subito il calo maggiore quanto a ordinativi delle industrie greche, meno 11%. Un'ultima notizia sul fisco, perché il fisco italiano questa volta si sta interessando a ville e loft all'estero, ha fatto tappo in Costa Azzurra in Gran Bretagna recapitando 6.000 lettere ai contribuenti italiani che possiedono immobili non dichiarati individuati appunto dagli nostri 007 dell'Agenzia delle Entrate. Volete già sapere di Fiat al 349-238-6666? Ripeto, Sergio Marchionne ha detto: stiamo lavorando, non conosco il piano pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica. Il ministro Sacconi ha detto: queste indiscrezioni sono inquietanti, provocano allarme. Praticamente nel piano pubblicato dal quotidiano La Repubblica si citavano 5.000 dipendenti in meno, compresi 1.500 dipendenti diretti di Termini Imerese e 500 dipendenti che andranno in mobilità volontaria a Cassino sulla base di un accordo già firmato. Sarebbe invece una novità i 2.000-2.500 addetti in meno alle carrozzerie di Mirafiori e le 500 tutte blu che il sindacato stima possano perdere il posto a Pomigliano. E poi la riduzione di un quarto del numero dei modelli da 12 a 8 con la produzione italiana che crescerà fino a 900.000 vetture e 7 modelli con marchio Fiat, Alfa e Lancia realizzate negli Stati Uniti per il mercato d'oltreoceano. Però ripeto, la smentita è arrivata da Sergio Marchionne, che ha definito anche attacchi ingiustificati le descrizioni appunto stampa di una riduzione ulteriore dei posti di lavoro in Fiat. Allora, partiamo col tema della disoccupazione e lo facciamo in maniera che alcuni di voi magari troveranno populista, cioè mettiamo assieme due notizie che apparentemente non c'entrano niente, e mi riferisco al dato che già anticipavo dell'Istat, che ha fatto la fotografia di come è andata la disoccupazione nel 2009. Come immaginavamo sono stati dolori, anche l'occupazione cala per la prima volta da 15 anni, e un altro dato invece sui costi, lo so, sarà populista, ma sui costi del nostro Parlamento, perché insomma tutti stringono la cinghia, quasi tutti stringono la cinghia. Quasi tutti, perché oggi, devo dire grazie ai radicali, sono stati messi online i costi della Camera dei Deputati. Ricordate il tema che sembrava impellente nel 2006-2007, la casta. Allora, La Camera dei Deputati per il 2010 ha un budget di 138 milioni di euro. La parte del Leone la fanno gli affitti. Praticamente ci sono affitti anche stranissimi, 46 milioni e mezzo per l'allocazione dei palazzi marini a un unico fornitore, la Milano 90 SRL, 2 milioni per l'affitto di uffici in via del Vicario e quello dei depositi di Castelnuovo di Porto, 2 milioni di euro all'anno. Altre voci, i ristoranti e le mense, 6 milioni e mezzo nel bilancio della Camera, il catering costa 150.000 euro, pensate, 500.000 euro costano le divise e le camicie dei commessi della Camera, che per carità è importante che siano vestiti in maniera elegante e inappuntabile, 500.000 euro. Poi c'è una cifra stranissima, 48.000 euro è il costo del monitoraggio delle aree fumatori. 23.600 euro la manutenzione del parco orologi, 23.600 euro per mantenere gli orologi della Camera. Se va avanti così c'è qualcuno che lo farebbe, capito, umano l'orologio. Comunque 300.000 euro i corsi di lingua straniera per i deputati, che a questo punto saranno poliglotti, 700.000 euro di agendine, calendari e buste, 180.000 euro di spese per il voto elettrico, 400.000 euro la spesa per il canale satellitare della Camera, quasi 600.000 euro di consulenze. Confermo a chi già ce lo chiede che la Camera spende per gli uffici, versando alla Milano 90 SRL del gruppo Scarpellini, 46,5 milioni di euro solo per l'affitto di Palazzo Marini e una serie di immobili dislocati tra Via del Tritone e Piazza San Silvestro. 46 milioni e mezzo. E allora restiamo in questa chiave populista, tanto lo so già che la criticherete alcuni di voi, perché nel frattempo l'Istat se n'è uscita con i dati sulla disoccupazione, appunto. Nel resto del paese si festeggia un po' di meno, sicuramente si spende un po' di meno di divise, di catering, di monitoraggio delle aree fumatori e anche di manutenzione del parco orologi, perché la gente resta a casa, come ci racconta questa scheda. Per la prima volta da 14 anni diminuisce il numero degli occupati italiani. A farne le spese, in particolare, gli uomini e a livello territoriale il Sud, che ha chiuso il 2009 con quasi 200.000 posti in meno. Più in dettaglio, sono stati i lavoratori italiani a vedere sfumare il numero maggiore di posti, oltre 500.000, mentre è cresciuta la manodopera straniera, anche se con ritmi inferiori al passato. Nel complesso, il tasso di disoccupazione l'anno scorso è salito al 7,8%, ossia un punto in più rispetto al 2008. Viceversa, è scesa la quota di chi ha un lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa. Il tasso di occupazione ha toccato il 57,5%, meno 1,2% sul 2008. A ricordare il 2009 con amarezza saranno soprattutto i giovani, il cui tasso di disoccupazione ha superato il 25%, con punte del 36% nel mezzogiorno e del 30% per le donne. E che siano stati i più giovani a soffrire maggiormente si deduce anche dalle tipologie di contratti. Nel 2009 quelli atipici sono scesi di oltre il 7%, mentre ha tenuto il posto fisso. Per i contratti a tempo indeterminato, la flessione è stata solo dello 0,2%. Infine, la perdita di posti di lavoro l'anno scorso non ha risparmiato nessun settore economico. Vera e propria emorragia di occupati totali nell'industria, meno 4,3%, seguita dall'agricoltura, meno 2,3%. Intorno all'1%, infine, il calo dei posti nelle costruzioni e nei servizi. Questi i dati diffusi oggi dall'Istat, al 349-238-6666 le vostre domande. Allora ragioniamo di occupazione e disoccupazione. Alcuni commenti, il ministro Tremonti ha detto comunque i dati sono migliori che nella media europea, in effetti la media europea si avvicina al 10%, come tasso di disoccupazione, e anche il ministro Sacconi ha avuto un commento analogo, ha detto il dato medio sulla disoccupazione in Italia è inferiore dell'1,6% alla media dell'area euro, e anche questo è vero, noi partivamo tra l'altro da una media più bassa, dal 7,5% di disoccupazione. Professor Della Ringa, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Economista dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, proprio sui temi dell'occupazione, del lavoro, del mercato del lavoro. Allora, populisti siamo stati? No, è giusto, bisogna fare le riforme significa ridurre le spese, non chiamiamole improduttive, ma quelle comprimibili, senza creare gravi danni al benessere dei cittadini, perché c'è bisogno di diminuire le tasse, perché senza diminuzione delle tasse il paese non riprende. Secondo lei 23.000 euro per la manutenzione del parco orologi della Camera sono comprimibili? Io penso di sì, assolutamente sì. E anche forse 300.000 euro di corsi di lingua straniera, uno se li può anche pagare i corsi, dai. Certamente. E così poi magari non parlerà l'inglese o il tedesco e il cinese così bene, ma insomma ce la può fare. Secondo me anche 48.000 euro di monitoraggio delle aree fumatori sarebbe anche un segnale, noi non dobbiamo trascurare anche l'aspetto, sì, diciamo così, di segnale, di misure di contenimento di spese di questo tipo. Sì, appunto, al di là dei conti pubblici, certo, sicuramente da quello non arriva un beneficio per i conti pubblici, ma arriva un segnale, i segnali sono importanti. Andiamo sui dati. Allora, alcuni ascoltatori dicono, ma insomma, vedo che c'è già un clima pre-elettorale, ma è immaginabile, ma insomma, parlate di cose del 2009, parlate di storia. Oddio, chi ha perso il posto di lavoro glielo dovete spiegare a lui che è storia, eh? Perché insomma i dati a disposizione sono quelli del 2009. Verissimo che la media italiana è più bassa di quella europea, la cosa che più l'ha sorpresa di questi calli, di questi dati, il calo del quarto trimestre, meno 428.000, oppure il dato sugli occupati, che ricordiamo, professore, non sono l'opposto dei disoccupati. Quello che è impressionante è un dato particolare, poi possiamo parlare anche dell'aggregato, che anche quello è la cosa forse più importante, ma il calo nel mezzogiorno è veramente impressionante. Praticamente anche diciamo così, il dato congiunturale, cioè l'ultimo trimestre su quello precedente, la riduzione dei posti di lavoro è solo nel mezzogiorno. E questo richiama alla mente tutti, diciamo così, gli inviti fatti anche dal Presidente della Repubblica di pensare a cosa fare di queste aree del nostro paese. Questo è veramente un dato molto molto preoccupante. Le faccio una domanda: può essere che al sud, dove sappiamo la presenza del nero, del lavoro sommerso è più forte, in realtà non siano tutti posti di lavoro persi, ma in realtà posti di lavoro che si sono sommersi? No, senz'altro è così. Perché se noi vediamo i dati non cresce la disoccupazione. Ecco, cosa vuol dire? Beh, in parte è gente che probabilmente non cerca più, le giovani ragazze, le donne di 40-45 anni probabilmente si sono stancate di cercare e quindi sono passate inattive, ma non c'è dubbio che molti giovani, meno giovani si rifugiano nel sommerso, che sì, è un rimedio, ma non è il toccasana della situazione. Il fatto è che il lavoro ufficiale viene a calare, e questo richiama alla mente anche tutte le decisioni anche di medie e grandi imprese che lasciano il mezzogiorno, e questo ci fa veramente interrogare su un ambiente economico sociale molto carente dal punto di vista di attirare quelle poche iniziative che magari c'erano. Quindi è un problema di medio-lungo periodo, perché quando ci sarà poi la ripresa, se il mezzogiorno non avrà creato quelle condizioni per sfruttare la ripresa, tutto il paese ne soffrirà. Ancora per quello che riguarda la prospettiva, in questo raccolgo anche la critica di chi dice vabbè, ma insomma parlate ormai del 2009, sì, ho capito, i dati che abbiamo sono questi, ma vediamolo in prospettiva. L'andamento del quarto trimestre segnala che anche nella parte finale dell'anno, e questo lo vediamo anche dagli ordinativi della produzione industriale, non è che ci sia stata questa ripresa, però le sembra che si stia quantomeno stabilizzando il dato sulla disoccupazione? No, purtroppo non credo, vorrei essere smentito, per carità, anzi spero di essere smentito. Lei non mi dà una mano della ringa oggi, puntata difficile. Dire, ma guardi che il dato già così, voglio dire, il peggioramento c'è anche sull'occupazione, ma congiunturalmente l'Istat dice è meno 0,2 e tutto concentrato nel mezzogiorno, nel nord e nel centro è più 0,1 l'occupazione congiunturalmente, cioè da terzo trimestre a quarto trimestre, quindi se noi dovessimo guardare solo il nord e il centro possiamo anche dire è iniziata la svolta dell'occupazione, infatti può essere così, però c'è un arretrato ancora, diciamo così, di lavoro che le imprese trattengono in attesa della ripresa, un po' in cassa integrazione, un po' orario ridotto, un po' a part time, un po' le ferie che sono state anticipate, cioè il 5% del PIL non è andato sull'occupazione, speriamo che non ci vada, ma qualche piccola scossa negativa possiamo aspettarcela anche sulla disoccupazione, perché è inevitabile che poi tutta questa gente che si è ritirata dalla ricerca del lavoro non aspetta altro di ricomparire, e speriamo che ricompaia nelle statistiche. Quindi quell'8,6 di tasso di disoccupazione di oggi, probabilmente, ecco, diciamo una cosa in prospettiva positiva, secondo me non arriva al 10% degli altri paesi. Se le previsioni vengono rispettate e non ci sarà un'altra piccola crisi, ma ci sarà una ripresa continua, tendenzialmente positiva, io credo che ci possa essere qualche peggioramento, qualche 0, sul tasso di disoccupazione, ma non raggiungeremo quello degli altri paesi. Quindi andiamo più magari al 9%, ma non arriviamo al 10%, che è la media europea. Nel frattempo, mi sembra di poter dire, visto che lei è stato anche commissario straordinario dell'ISFOL, e quindi conosce bene anche tutto il tema degli ammortizzatori sociali, oltre che del pubblico impiego, che sul fronte degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione in primo luogo, le risorse, su questo il ministro Tremonti è stato molto chiaro, ci sono e non sono neanche state tutte utilizzate quelle richieste. Sulla cassa integrazione siamo con la Germania il paese che è più interventista al mondo, cioè nell'incentivare le imprese a trattenere il capitale umano che avevano accumulato, siamo stati più attivisti di tutto il mondo insieme con i tedeschi, questo viene riconosciuto, quindi lì abbiamo fatto moltissimo. Ci rimane qualcosa da fare adesso che c'è questa disoccupazione, diceva, nel 2009 ma molta di quella gente è disoccupata, sono più di 2 milioni, ecco, quanti di questi hanno il sussidio? In Italia la percentuale di questi 2 milioni e passa che hanno il sussidio è molto bassa, ecco. Allora bisognerebbe mettersi la mano sulla coscienza e dire, ma forse se abbiamo un po' di soldini non sarebbe il caso di allargare la platea di quelli a cui dare un po' di sussidio, che farebbe poi reddito, che farebbe anche un po' di consumi, ecco, io penso che se Sacconi aprirà un tavolo dovrà affrontare anche questo problema. Un'ultima domanda, professor Della Ringa. A me ha sorpreso invece dei dati, oltre che l'emorragia di posti di lavoro al sud, insomma le proporzioni sono incredibili, si è scaricata quasi tutto sul sud questa disoccupazione, però anche il dato sui giovani, e già sappiamo che i giovani da sempre quando ci sono difficoltà i primi sono i più fragili sul fronte dell'occupazione, però le tipologie dei contratti, cioè meno 7% l'occupazione in chi aveva contratti atipici, mentre chi aveva il posto fisso ha tenuto, insomma i contratti a tempo indeterminato sono calati solo dello 0,2%, fatti salvi chiaramente quelle situazioni di industrie che hanno avuto un'estrema difficoltà, ma parliamo in generale. Certamente, diciamo così, è un po' la valvola di sfogo il lavoro temporaneo, è la funzione è anche quella, si chiama temporaneo non a caso, quindi la crisi per quel poco che si è riflesso sul mercato del lavoro è andato in una riduzione di orario dei permanenti e di non rinnovo del contratto temporaneo, non per tutti, ma per una buona percentuale di quelli che hanno questo lavoro, i quali naturalmente dovranno sfruttare le occasioni che ci saranno in futuro per rinnovare questi contratti. Ecco quando dicevo, a questi giovani e meno giovani non gli diamo perlomeno almeno un po' di sussidio oltre alla formazione, oltre al consiglio, oltre al collocamento, ai servizi per l'impiego. Ecco, un po' di reddito legato a un retraining, a una riformulazione delle loro capacità professionali non andrebbe male, come segnale proprio nei confronti di una categoria che è quella che ha sopportato maggiormente la crisi. Professor Della Ringa, lei si sente una persona di sinistra? No, perché chiedono gli ascoltatori, io ricordo che lei ha collaborato attivamente anche con il ministro Sacconi. No, insomma, mi sento una persona moderata, se questo l'aggettivo perché moderato non fosse, avesse un connotato negativo. Ma perché dico, siccome qualcuno scrive, ma la trasmissione è sbilanciata a sinistra, insomma abbiamo citato come dichiarazione Tremonti e Sacconi. Certo. Il professor Della Ringa è stato collaboratore del ministro, scrive per il Sole 24 Ore. Andiamo avanti così fino a venerdì, va bene, grazie professor Della Ringa e buon fine settimana. Adesso altri messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. E allora, volete sapere dell'Argentina? Ripeto, ne parliamo fra circa 20 minuti perché l'offerta argentina viene ancora valutata dai vari organismi, ma è giusto ricordarla, così come più avanti parleremo di Fiat. State scrivendo delle cose che obiettivamente non, di cui non so nulla, su se le Alfa Romeo verranno assemblate a Detroit, questo sarebbe indegno per Mirafiori. Immagino che siano tutte reazioni a quell'articolo smentito dai vertici Fiat pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica, ma anche qui ne parliamo dopo il meteo, la pubblicità e la borsa. Devo dire che il mercato comunque, va detto, ha scommesso su Fiat. Immagino che arriverà ad aprire un'ipotesi di spin-off, perché di solito su questo scommette la borsa quando fa crescere il titolo, più 4,2% quasi a 10 euro per azione, e anche XOR più 3,2%. Miglior titolo Prismian più 6,1%, Mediaset più 5,5%, ST Microelectronics più 4,4%, e XOR l'abbiamo detta, A2A più 3,1%. E ripartiremo da lì raccontando anche perché di Impregilo ha perso il 2,7%, Buzzunice meno 2,5%, Telecom meno 1,5%, Atlantia meno 1,30%. Euro sempre debole per via dell'abbassamento del voto al Portogallo, che diventa il nuovo paese a rischio, a 1,33 sul dollaro, e invece ai minimi storici sul franco svizzero a quota 1,42. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo, pubblicità e poi la borsa. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia, in cui andremo a commentare la borsa e poi arriveremo alla Fiat. Non posso continuare sui costi della Camera, ci sono delle cose bellissime. Abbiamo unito volutamente in maniera populista i costi della Camera con il dato record sulla disoccupazione, visto che appunto alcuni tirano la cinghia e altri meno. Dico solo, ma insomma li trovate tutti quanti sui siti, che praticamente quanto spende d'affitto la Camera dei Deputati è pari a 9.000 euro al mese per deputato. Cioè 9.000 euro al mese per deputato, inclusi 45 milioni di cui parlavamo prima. E c'è anche, perché è bellissimo, ci sono delle cose bellissime, praticamente c'è anche una convenzione con il centro diagnostico Pantheon, che è finanziata con una quota di 200 euro al mese che ogni singolo deputato versa a un fondo di solidarietà, che consente, però non è finanziata quindi direttamente dalla Camera, ma consente agli onorevoli e ai familiari, anche se coppie di fatto, giustamente, di ricevere rimborsi per interventi di chirurgia plastica e poi prestazioni come cura del sonno, shiatsu-terapia, elettroscultura, ginnastica passiva, balneoterapia, con 1.800 euro di plafond annuo e 3.100 euro l'anno per la psicoterapia. La borsa. Allora, andiamo sui mercati, che oggi forse è meglio, perché insomma non vi dico i messaggi che arrivano. Bene la giornata, non tanto sugli indici, più 0,1, invariata Parigi, positiva Francoforte, più 0,3, Londra invariata, l'America meno 0,2. Ripeto la notizia, e lo faremo nella seconda ora del programma, è l'euro di nuovo sotto pressione su dollaro, franco svizzero e non solo. Timori sul Portogallo. Per quello che riguarda casa nostra, la notizia del giorno è Fiat, ma di questo parliamo fra qualche minuto. Quindi, a parte Fiat, tutto il resto con Guido Maurino, Radio Colli, Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Mediaset, Prismian, i due migliori titoli: Prismian più 6,1, Mediaset più 5,5%. Sì, allora, per quello che riguarda Prismian, che oggi è stato il miglior titolo sull'indice principale, si evidenzia come appunto la società e il titolo in modo particolare abbia guadagnato il 14% da inizio anno, e una fase assolutamente positiva, soprattutto perché il mercato ritiene che il titolo tratti a sconto rispetto al settore e alla media storica del titolo, e questo oggi è stato messo in luce in modo particolare anche perché c'era un report di una casa d'affari che ha sostanzialmente spinto e ha portato acquisti sul titolo. Allora, ancora tra i titoli, ripeto, Fiat più 4,2, bene anche ST Microelectronics più 4,4%, c'è qualche motivo specifico? Debolezza dell'euro, perché loro fatturano molto anche in dollari, penso io, però dimmi tu. Sì, obiettivamente questa è la ragione principale per cui oggi il titolo andava bene, questa debolezza dell'euro che sta portando alcuni operatori del mercato a rivedere un po' le stime sui conti dell'azienda per quello che riguarda il 2010 e il titolo oggi ne ha beneficiato. Allora, volete sapere al 349-238-6666 dei conti della Popolare di Milano, che oggi infatti li ha diffusi, per utile di 103 milioni di euro nel 2009, più 37%, il dividendo ci sarà per gli azionisti a 10 centesimi di euro per azione, identico a quello del 2008, e questi dati li ha commentati il direttore generale Fiorenzo Dalu al microfono del nostro Stefano Totolo. Si chiude positivamente in un contesto di mercato molto difficile, noi siamo contenti di dare la stessa remunerazione ai nostri soci. Certo che i tempi sono quelli che sono, però BPM non ha fatto solamente un esercizio buono, ma ha messo anche le basi per adeguare quella che è la struttura societaria a tempi che sappiamo che non saranno facili prossimamente. Noi abbiamo dei impegni con i nostri soci sono molto attivi e partecipano alla vita societaria e contribuiscono anche al nostro risultato, per cui siamo ben... è nostro dovere remunerarli. Un 2010 che si apre in un contesto sicuramente difficile, il contesto economico sicuramente è difficile, anzi forse più difficile per le banche del 2009, ma noi ci siamo attrezzati per tempo per dare dei buoni risultati. Chiaramente auspicheremo tutti un miglioramento dell'economia, d'altra parte BPM si è strutturata in maniera tale con le società prodotto di essere al momento pronta per rispondere a tutte le richieste, a tutte le esigenze del mercato, sia nel comparto dei privati e specialmente nel comparto delle aziende. Così Fiorenzo Dalu, direttore generale della Banca Popolare di Milano. Di investimenti anche sul 2010, di operazione, ha parlato però anche il presidente della BPM, sempre al microfono il nostro Stefano Totolo, Massimo Ponzellini. Il 2010 sta andando lentamente, ma non vediamo problemi drammatici, anche se non vediamo grandi sviluppi. Quindi noi che investimenti vogliamo fare? Vogliamo investire sui nostri clienti, sulle nostre famiglie, sugli artigiani, su quelli che sono i nostri settori tradizionali, e dare a questa gente proprio non solo l'idea ma anche concretamente la finanza necessaria perché possano proseguire nelle loro attività. Quindi anche gli aiuti alla piccola e media impresa? Soprattutto aiuti alla piccola e media impresa, agli artigiani che sono l'80% del nostro portafoglio tradizionale. Quanto al 2009 invece è andato bene e vi aspettavate dei risultati così? Beh, insomma è andato abbastanza bene. Abbiamo ridotto molto le spese, abbiamo aumentato i ricavi, abbiamo fatto molte economie, insomma ci siamo adeguati ai tempi e cerchiamo di andare avanti su questa strada, ridurre sempre le spese, aumentare i ricavi e servendo meglio e aumentare gli impieghi per servire meglio la clientela. Così appunto il presidente della BPM Massimo Ponzellini. A chi ci sta chiedendo al 349-238-6666 di ricordare i dati sulle spese della Camera dei Deputati, dai, lo rifaremo alle 18, se vi piace soffrire, soffrirete ancora. Ce ne sono di pazzeschi. Comunque, tornando alla borsa, il titolo oggi, devo dire, Guido Maurino si è mosso BPM poco, ha fatto un più 1% comunque, a 4,73 euro. Chi si è mosso ma in negativo, in pregilo, meno 2,70, Buzzi Unice meno 2,5, settore costruzioni. Sì, il settore costruzioni oggi è stato duramente penalizzato, sono quasi tutti i titoli peggiori dell'S&P MIB appartengono a questo settore, in pregiro meno 2,72%, Buzzi Unice meno 2,55%, anche Italcementi ha ceduto l'1,20%. Tornano le preoccupazioni sull'economia, la situazione greca, come ricordavi anche tu prima, si sta aggiungendo adesso quella del Portogallo dopo la decisione di Fitch di abbassare il rating di lungo periodo sul paese. e anche i dati provenienti dagli Stati Uniti sulle case nuove hanno fatto segnare un record negativo dagli anni 60, quindi insomma c'è un attimino di preoccupazione sul settore delle costruzioni. Altri titoli dopo le informazioni sul traffico, i messaggi al 349-238-6666. Di nuovo in diretta, allora, si diceva di Telecom, oggi in flessione ma risente appunto l'1,5% perso dello slittamento sull'approvazione del bilancio. Per quello che riguarda il mondo bancario, Guido, possiamo dire che comunque la notizia sul Portogallo ha raffreddato e ha pesato su tutto il settore finanziario europeo. Sì, sostanzialmente, a parte BPM che ricordavi tu prima, ha guadagnato l'1%, il settore finanziario è stato penalizzato, diciamo Fondiaria Sei ha ceduto lo 0,92%, Unipol, che domani presenterà i dati 2009, ha ceduto lo 0,77%, ma neanche Mediobanca, meno 0,69%, e con flessioni attorno al 0,5% troviamo anche Unicredit e Generali. Di Mediaset abbiamo già detto, lo dico a chi ce lo chiede, buono il dato, anzi il secondo miglior titolo, più 5,5%, i conti non sono eccezionali, ma le prospettive sono giudicate buone per il 2010. Devo dare altri trimestrali, altri dati di bilancio. Il gruppo Mediolanum ha chiuso il 2009 con un utile netto di 217 milioni di euro, più 66%, e il dividendo sarà di 15 centesimi di euro per azione. La cedola stabile, come ha sottolineato lo stesso Ennio Doris, l'amministratore delegato del gruppo Mediolanum. Conferma che ce lo chiede, che ieri in serata, ma lo trovate oggi su tutti i giornali, si è saputo che è stato convocato per venerdì 26 marzo, quindi questo venerdì, il comitato nomine di Mediobanca, che dovrà dare la lista da presentare per il rinnovo del consiglio di amministrazione delle Generali. Manca ancora un bilancio. A2A ha chiuso 2009 con un utile netto di 80 milioni di euro, meno 74% sul 2008, a causa soprattutto però di un rimborso degli aiuti di Stato imposto dall'Unione Europea. In assenza del rimborso l'utile si sarebbe attestato a 324 milioni di euro. Comunque vi saranno 7 centesimi di euro di dividendo per gli azionisti di A2A. Grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Devo dire, su Cell Therapeutics vogliamo fare una battuta, insomma ieri ha fatto meno 30, oggi fa più 18. L'ottovolante è quasi un eufemismo, Guido? Qui si tratta soprattutto di un rimbalzo. È vero che questa mattina la società ha comunicato i dati che deve comunicare mensilmente, perché sono chiesti da Consob, che vedono una riduzione delle perdite per il mese di febbraio, ma sostanzialmente si tratta di un rimbalzo. Grazie di nuovo a Guido Marino, Radio Cori, Sole 24 Ore. La Fiat, poi alcuni commenti, devo dire che molti sono chiaramente così perplessi, seccati, amareggiati dai dati che abbiamo letto sui costi della Camera dei Deputati. Anche lì è chiaro che la Camera dei Deputati ha un costo, noi ci siamo limitati, ci mancherebbe, a far vedere dei costi che sembravano obiettivamente così surreali per essere buoni. Poi c'è chi dice, vabbè, facile fare giornalista così, animare gli animi del popolo come un masaniello dell'etere. Vabbè. Ci avviciniamo a venerdì. Andrea Malan, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, vediamo di stare calmi, perché qua oggi è successo di tutto su Fiat. Perché la Repubblica oggi, con un articolo, ha illustrato quelli che sarebbero, secondo lei, i punti chiave del piano strategico 2010-2014, che verrà presentato, non quel piano lì, un piano verrà presentato il 21 aprile nel Consiglio di Amministrazione. Smentita dal Lingotto, un commento del gruppo, ha detto: al momento il gruppo è impegnato nella preparazione del piano e qualsiasi anticipazione giornalistica è assolutamente prematura e priva di fondamento. Sullo spin-off, cioè la separazione auto dal resto, sono notizie, congetture nate al di fuori del gruppo. Marchionne ha detto: non conosco quel piano, non ho mai licenziato, è ingiusto picchiarci. Invece le ha definite inquietanti il ministro Sacconi, le indiscrezioni della Repubblica. Che cosa diceva Repubblica? Oltre all'ipotesi di spin-off, che vi sarebbero 5.000 dipendenti in meno, inclusi 1.500 di Termini Imerese e 500 già decisi in accordo con i sindacati a Cassino, in mobilità volontaria. Spunterebbero 2.000-2.500 addetti in meno alle corazzerie di Mirafiori, 500 tutte blu che potrebbero perdere il posto a Pomigliano, una riduzione di un quarto del numero dei modelli da 12 a 8, con la produzione però italiana che dovrebbe crescere fino a 900.000 vetture e 7 modelli con marchio Fiat, Alfa e Lancia realizzati negli Stati Uniti per arrivare a produrre per il mercato americano 350.000 unità auto prodotte dall'altra parte dell'Atlantico. Domanda facile e facile: che cosa secondo te c'è di vero in questo piano? Domanda facilissima. Allora, per quanto riguarda lo scorporo, scorporiamo subito la domanda. Di scorporo se ne parla da un pezzo, ne ha parlato Marchionne, ne abbiamo scritto un po' tutti. Che ci sia uno scorporo già quest'anno è molto difficile, tenuto conto delle condizioni dei mercati, sia dell'auto che dei camion e delle macchine agricole, che sono l'altra parte importante del gruppo Fiat. Cioè, comunque venga fatto lo scorporo, cioè togliendo da Fiat S.p.A. l'auto, oppure togliendo i camion e le macchine agricole, lasciandoci il resto, Fiat in questo momento dovrebbe presentare al mercato un'entità i cui mercati di sbocco non vanno molto bene. È più probabile che convenga, prima di chiedere fondi al mercato, aspettare almeno l'anno prossimo e almeno qualche segnale più concreto di ripresa. Questo per quanto riguarda la parte finanziaria. Per quanto riguarda i tagli, il comunicato Fiat non smentisce che verranno fatti, non dice che non verranno fatti tagli, smentisce, diciamo, che ci sia un piano già consolidato e che i numeri siano quelli pubblicati da Repubblica. Possiamo aggiungere che un paio d'ore fa è uscito anche Automotive News, che riprende numeri simili, anzi scrive che gli esuberi sarebbero 5.000 senza contare lo stabilimento di Termini. In particolare Automotive News parla di appunto 2.000-2.500 tagli a Mirafiori, è un numero non molto distante anche a Pomigliano, nonostante il previsto ritorno della produzione della Panda in Italia. Allora, detto ciò, in attesa appunto del 26 aprile, mi sembra di capire una cosa però, Andrea, che tu hai ragione nel dire che la Fiat non ha smentito, ha detto ci stiamo ancora lavorando, quindi sono così anticipazioni prive di ogni fondamento, non ha detto non licenzieremo mai, però mi sembra che non abbia nemmeno smentito l'ipotesi di spin-off, cioè di separazione delle attività auto dal resto. La smentita è molto blanda. Questa cosa qui di fatto sembra per molti essere l'oggetto del prossimo CDA. Beh, no, diciamo che, allora, che uno spin-off ci sarà oramai, lo danno tutti per scontato, mercato compreso, ed è anche per questo che sulle voci riprese oggi il titolo in borsa ha guadagnato parecchio. La sua praticabilità in tempi brevi è abbastanza discutibile, quindi io mi sentirei di dare un'opinione abbastanza negativa, una previsione quantomeno negativa da questo punto di vista. Cioè è difficile. Poi diciamo che prima non ho citato una delle ipotesi possibili, cioè che semplicemente venga attuata una scissione tra l'auto e il resto delle attività senza andare sul mercato, cioè senza collocare immediatamente in borsa una delle due parti, e semplicemente per far emergere il famoso valore che viene, diciamo, mascherato mettendo insieme tutto. Sì. Questa è un'ipotesi possibile, ma anche qui appunto dipende molto dal momento in cui lo si fa. È possibile quindi che con mercati dell'auto e di tutti gli altri veicoli che vanno ancora male non sia il momento migliore. Comunque questo lo vedremo ovviamente nelle prossime settimane. Sì, e soprattutto il 26 aprile. Comunque avete capito, insomma, smentite parziali, ci stanno lavorando, confermato comunque l'interesse nel produrre in America, anche di questo parleremo in altre puntate. Grazie per adesso Andrea Malan, il GR, e poi invece parliamo dei bond argentini, l'offerta dell'Argentina e del Portogallo, il cui voto è stato drasticamente abbassato dall'agenzia di rating Fitch. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte del Focus Economia, per parlare dell'offerta argentina agli obbligazionisti, tra cui erano 430.000 italiani, non so quanti ne siano rimasti, ma pochi hanno aderito alla prima offerta, e poi per parlare di Lisbona, o meglio del Portogallo, l'abbassamento del voto che ha operato oggi l'agenzia di rating Fitch, che ha penalizzato l'euro, che è tornato ai minimi storici di nuovo, li ha battuti anche sul franco svizzero, e anche sull'euro siamo ai minimi da quasi un anno. 349-238-6666 per i vostri sms. Volete di nuovo che vi raccontiamo quali sono le spese della Camera? Allora, precisazione: la Camera, come il Senato, come la politica, hanno un costo. Ci siamo solo concentrati sulle spese che ci apparivano un po' così bizzarre, ecco, forse con le famose spese più comprimibili. Tra cui 48.000 euro per il monitoraggio delle aree fumatorie alla Camera, i 23.600 euro per la manutenzione del parco orologi della Camera, i 300.000 euro per i corsi di lingua straniera per i deputati, i 700.000 euro per agendine, calendari e buste e i 400.000 euro per il canale satellitare della Camera. Va anche detto che alcuni di questi costi sono purtroppo eredità di scelte degli anni passati, dei decenni passati. C'è poi il capitolo degli affitti, che è un capitolo storicamente che non si riesce a risolvere. Perché gli affitti costano alla Camera, che ha un bilancio di 140 milioni di euro, 47 milioni di euro. I quattro uffici di Palazzo Marini costano appunto 46 milioni e mezzo questi uffici e 2 milioni l'affitto di via uffici di via del vicario. Per cui, insomma, il calcolo fatto è, dividendo il numero di deputati per il costo degli affitti, è molto semplice, viene fuori 9.000 euro al mese per deputato di costo degli affitti della Camera. Lasciamo stare le cure invece per la chirurgia plastica, quelle sono convenzioni, in realtà il deputato paga 800 euro al mese a un fondo di solidarietà e poi consente di avere sconti, interventi di chirurgia plastica, cura del sonno, shiatsu-terapia, elettroscultura, ginnastica passiva, balnoterapia bellissima, e anche c'è un plafond di 3.000 euro l'anno per la psicoterapia. Dall'Italia all'Argentina, e qui mi fermo, parliamo adesso dell'offerta del governo argentino, che in sostanza sta tentando di sistemare una volta per tutte i conti con gli obbligazionisti, anche perché questa cosa pesa sulla reputazione poi internazionale dell'Argentina, su possibili operazioni future. E stiamo parlando di obbligazionisti che non hanno aderito nel 2005 alla prima offerta dell'Argentina, allo swap, allo scambio tra obbligazioni finite in default, in crack, con l'offerta di allora. 14 miliardi di euro il crack dell'Argentina, 450 mila risparmiatori coinvolti. Ieri Buenos Aires ha presentato alla Consob italiana una nuova proposta che interessa 180 mila titolari di obbligazioni per un controvalore di 4 miliardi e 400 milioni. Fermo restando che informazioni più esaurienti ve le darà domani Deborah Rosciani a mezzogiorno, ci colleghiamo con Buenos Aires dove c'è Emiliano Guanelle. Emiliano, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. Effettivamente il ministro dell'economia argentino ha fatto trapelare che l'aspettativa è che ci sia una situazione a livello mondiale del 60% di questo nuovo capitolo della questione argentina versus fallout. Ricordiamo nel 2005 ci fu la prima offerta. Ecco, in che termini dovrebbe essere migliorativa questa offerta? Migliorativa anche perché si contempla, e questo verrà definito poi, si calcola circa 2 settimane, perché si aspetta adesso l'approvazione, anche la presentazione, l'approvazione anche in Lussemburgo, si prevede anche il pagamento di interessi dal 2005 ad oggi. Questo è un po' l'aspetto che può migliorare l'offerta precedente, che proprio in Italia non ricevette una grandissima accettazione. Perché era un'offerta abbastanza indegna, se mi passi il tempo, insomma, veniva rimborsata una cifra irrisoria del capitale senza interessi. Insomma, però, è vero che si dice che il rimborso potrebbe essere tutto incluso, quindi se ho ben capito anche gli interessi, pari al 50% del valore delle obbligazioni che uno aveva quando poi l'Argentina andò in crack? Beh, per adesso l'Argentina definisce perlomeno un miliardo di finire per almeno $1 miliardo di dollari, la cifra di denaro fresco che potrebbe entrare in questo tipo di operazione. Ricordiamo appunto che per l'Argentina è essenziale superare questa fase per poter accedere di nuovo al reinserirsi nel mercato dei capitali. Sono tre tipi di offerta: un buono fisso al 2038, un buono discount al 2013 e un buono variabile legato al PIL. Gli economisti argentini e anche le banche che cercheranno appunto di cacciare questa offerta considerano un'offerta sicuramente migliorativa, però la indicazione variabile è quella anche sullo stato di salute in generale dell'economia argentina negli anni a venire, già che stiamo parlando di buoni a lungo termine, Sebastiano. Sì, va detto, tu ricordavi, già noi vi facevamo un accenno che l'Argentina ha un interesse diretto. Finché non sistema questa cosa, è come quando un imprenditore o una persona finisce, non so, nell'elenco dei protesti o non riesce più a fare un'offerta obbligazionaria sul mercato internazionale, perché c'è questa spada di Damocle che pesa, ossia non avere rimborsato gli obbligazionisti di allora, e vuole chiudere questa vicenda. Devo dire, ma qui il condizionale d'obbligo, che se dovessero essere confermate queste anticipazioni, cioè un valore pari al 50% di quanto uno al tempo comprò di obbligazioni argentine, beh, l'offerta sarebbe nettamente migliore e avrebbe avuto in quel caso ragione l'ABI, l'associazione del Comitato per le Obbligazioni Argentine. Le banche italiane a dire rifiutate l'offerta di allora del 2005 avanzata dal governo argentino, avrebbe avuto, perché dobbiamo vedere esattamente i dettagli. Grazie per ora a Emiliano Guanella in collegamento con noi da Buenos Aires. Chiedo scusa per la cattiva qualità del collegamento. E adesso l'ultimo caso, l'ultima notizia di questa giornata economico-finanziaria e riguarda appunto il Portogallo. Che cosa è successo? Questa mattina una delle tre agenzie che danno i voti al debito, ai debiti dei vari paesi sovrani, oltre che anche di singoli emittenti privati, mi riferisco a Fitch, ha tagliato il voto sul debito del Portogallo da AA- ad AA-. Ma soprattutto è l'outlook, come si chiama in gergo, cioè le prospettive che preoccupano. Le prospettive infatti per Fitch sono negative. Le motivazioni le sentiremo dal diretto interessato dopo le informazioni per chi è in viaggio. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Allora andiamo a ripercorrere che cosa è successo oggi e lo faremo. Intanto lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento con il numero uno, l'amministratore delegato di Fitch Italia, dottor Marco Cecchi De Rossi. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, oggi le notizie riguardano il Portogallo, ma riguardano anche la Grecia. Teniamo le due cose assieme. Partiamo dalla Grecia. Sta crescendo il consenso anche all'interno dell'Unione Europea di un eventuale ruolo del Fondo Monetario Internazionale nell'aiutare la Grecia. Verrà discusso comunque l'eventuale aiuto al prossimo vertice europeo e per quello che riguarda il ricorso al Fondo Monetario in maniera diretta, contrario, si è detto oggi in un articolo al Die Zeit, il membro italiano della Banca Centrale Europea, Lorenzo Binisbaghi, ha detto il ricorso al Fondo Monetario Internazionale come proposto dalla Germania è da rifiutare perché sarebbe un danno per l'euro. È più possibilista, anche se con l'insieme di distinguo, il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, che ha detto vabbè, si può gestire, occorre gestire a livello europeo la crisi greca anche avvalendosi del know-how del Fondo Monetario Internazionale. E appunto oggi la posizione l'ha espressa a margine di un appuntamento elettorale a Napoli. Sentiamo Giulio Tremonti. Santa ipotesi che la Grecia sia lasciata da sola, e la Grecia da sola potrebbe chiedere il Fondo Monetario, che l'Europa, questa è l'ipotesi opposta, che l'Europa faccia lei un intervento, un'ipotesi intermedia, che l'Europa organizzi un intervento basato anche sul Fondo Monetario, siccome usato come banca, come know-how, ma sotto una regia politica dell'Europa. quindi non il fondo che arriva in una landa desolata e governa la situazione, ma il fondo che arriva come una banca che viene chiamato dall'Europa. Io preferirei l'ipotesi numero 3, cioè che sia l'Europa che organizza una gestione del caso Grecia. Non vorrei l'ipotesi 1, che sia la Grecia da sola. Credo che sia gestibile l'ipotesi intermedia, cioè che sia l'Europa che utilizza anche il fondo. Non dimenticate che l'Europa è il più grande azionista del fondo monetario, non dimenticate che in questo momento stiamo dando i soldi al fondo, e sarebbe anche un po' strano che noi diamo i soldi al fondo, ma non vogliamo i soldi dal fondo, che sono sempre i nostri. Questa è la cronaca per quello che riguarda il caso greco, e poi dicevamo del Portogallo, il taglio del voto da parte dell'agenzia di rating Fitch, le conseguenze sono avute sia sull'euro, che appunto è toccato i minimi storici di nuovo, sul franco svizzero, adesso è 1,427, sia nei confronti del dollaro è sceso a un livello che non vedeva da quasi un anno, siamo a 1,33. E come immaginabile è anche aumentato la differenza tra quanto rende un'obbligazione portoghese e un'obbligazione tedesca. Siamo arrivati a all'1,28% di differenza, 4 centesimi in più. Dottor Cecchi De Rossi, perché avete tagliato il voto al Portogallo, e questo, chiariamo subito la questione, potrebbe preludere a un nuovo caso greco secondo voi, o stiamo parlando di due situazioni molto diverse, visto che la Grecia i conti li aveva truccati, il Portogallo per quello che ne sappiamo proprio no? No, sono situazioni distinte, ancorché sono, come noto, due paesi che hanno aderito all'euro e che quindi usano l'euro come valuta. E nel caso del Portogallo la decisione dell'abbassamento di rating a doppia meno è stata presa in funzione della prestazione della finanza pubblica nel 2009, che sono state peggiori del previsto e delle peggiori che previste attese di recupero della crescita nel 2010. Quindi sostanzialmente la posizione del Portogallo non era più compatibile con un rating doppia A, e da questo fondamentalmente la ragione per l'abbassamento del rating, che peraltro ricordo rimane nella fascia dei rating buoni. Molto sì, nella sì. Fascia elevata, diciamo, dei rating, e peraltro uguale a quello dell'Italia come rating, mentre la differenza è che l'Italia ha un outlook, cioè prospettive stabili. Però ecco, perché vedete prospettive negative? Perché a noi interessano più le prospettive che certo, il passato. Ma è un problema sostanzialmente di economia, di differenza dell'economia. L'economia portoghese è un'economia caratterizzata da settori a minore valore aggiunto, quindi anche nel caso di una ripresa già più flebile di quanto si prevede, la capacità, diciamo, di allargare la base tributaria per consentire un recupero dell'equilibrio è molto minore che in paesi che hanno dotati di settore a più alto valore aggiunto, per esempio l'Italia. Quindi diciamo la struttura produttiva portoghese, che di fronte a una ripresa meno forte del previsto soffrirà di più rispetto a noi, cioè esporta sì. Di meno, per esempio, per capirci. È corretto quello che lei dice, cioè in situazioni di anche pari stress, se posso usare questo sì, termine, sì, certo. è più probabile, ci aspettiamo, che il Portogallo abbia minore capacità di reazione di un paese come l'Italia, per esempio. E questo ci fa piacere come italiani, chiaramente non auguriamo nulla al Portogallo di male. Un'ultima domanda, dottor Cecchi De Rossi, state mettendo in campo altre revisioni? Voglio dire, qui, per colpa anche della speculazione finanziaria di oltreoceano, ma non solo, è settimane che ragioniamo sui PIGS, intesi come Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, alcuni ci vogliono aggiungere anche l'Italia, ma insomma, il caso greco è un caso molto particolare, ripeto, il governo precedente aveva truccato palesemente i conti a livello proprio da scolaro asino, e qui gli altri paesi, insomma, i conti nessuno li ha messi in discussione. Prevedete un peggioramento, e quindi ha ragione chi sta speculando contro l'euro? Guardi, noi ovviamente non prendiamo posizioni speculative, quindi né incoraggiamo né scoraggiamo quelle di altri. Quello che abbiamo detto già da tempo è che nella crisi finanziaria, che è stata poi accentuata dopo il fallimento di Lehman, ha cambiato tutto il rischio sovereign e non. Quindi ci sono anche delle AAA, come a livelli di rating minori più bassi, che sono relativamente più rischiose di prima della crisi, che sembrano ovvietà, che però poi ogni volta che si materializza un downgrade tutti si, c'è un abbassamento si, di si voto. Svegliano e dicono ah, ma allora che succede? E succede che siamo forse, anzi probabilmente all'uscita di una grande crisi economica e soprattutto finanziaria di fiducia, e che questo va a toccare tutti i rating, quindi dalle AAA in giù o se vuole dalla CCC in su. Ecco, in questo senso noi abbiamo tutti i rating sotto particolare attenzione, compreso quello delle AAA, che sono soprattutto stati sovrani e che comprendono paesi europei come la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna, paesi europei come gli Stati Uniti. E all'interno di questo, anche sotto insieme, ce ne sono alcuni che sono più, diciamo, a rischio e altri meno. Certo. Comunque, come dire, traduco io, non vi sorprendete sempre se nei prossimi mesi vedrete degli abbassamenti dei voti, sono le conseguenze anche di questa crisi. Grazie a Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Vi lascio la nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Per adesso, buona serata. Radio 24. La passione si sente.